Sì, buonasera. Allora. Grazie per l'introduzione della signora Trevisan. Faccio una presentazione del libro. Ecco, il mio libro si presenta così, col testo, e poi ci sono anche molte illustrazioni. Qui, quando facevo il militare a Vipiteno Sterzi, cioè quando ero alpino, cioè meglio artigliere alpino. Poi ci sono dei miei acquarelli, perché fare acquarelli per me è un modo per, diciamo, per entusiasmarmi oppure per intensificare il mio rapporto con la montagna. Non sono grande arte, comunque a me piacciono. Forse piaceranno anche a voi. L'importante è avere più piacere di fare le cose, no? Brava, sì. Questo è, no, faccio avere un po' un esempio di questi acquarelli. A me, per esempio, piace molto la stube tirolese tutta di legno, e ho voluto rappresentarla, no? Ce l'abbiamo sul computer, questi? Questo disegno, sì, questo sì, altri no, però dopo li passo in rassegna, sì. E invece questo era, per esempio, la baita su da noi in Lombardia, no? Tutta di pietre. Questa mi impressionava tanto da bambino, col Montanaro che fa sulla polenta, no? E quindi per me, diciamo, l'acquarello è un modo di intensificare il mio rapporto. Ho fatto solo una mostra, ne ho tanti di acquarelli, e quasi quasi ero contento, l'ho fatto al mio paese perché i compaesani hanno comprato poco, no? E io ero contento perché do via mal volentieri gli acquarelli, i libri li do volentieri via. L'acquarello è uno. Sì, sì, esatto. Questo, per esempio, è il mio paese sull'Lago di Seno. Scusi, cosa ha detto? Lago di Seno. Lago di Seno. Ah, il Lago di Seno. Sì. Lago di Seno. Questa è la sponda bergamasca, e invece qui è la sponda bresciana. In mezzo c'è questa isola, è diciamo che è l'isola più grande dei laghi d'Europa. No? È molto caratteristico, ci sono 7-8 paesi qui. Su questa isola. Ecco, quindi il lavoro mio è in tre direzioni: il testo, poi in cui parlo delle mie camminate, delle mie escursioni, e poi gli acquarelli, le foto, e infine anche riflessioni teologiche. Io ho studiato teologia, e per me era molto importante fare delle riflessioni teologiche, anche se parlavo con un amico prima e diceva: il tuo libro è un miscuglio, no? E gli ho detto: giustamente, perché se facevo solo riflessioni teologiche, ciao, con i tempi che corrono la religione non ha molto prestigio, no, ultimamente, quindi magari restavo io con i libri. Bene, allora comincio subito con l'introduzione, però cercherò di sorvolare su tante cose perché dobbiamo star dentro una mezz'ora, no? O, sì, anche di più. Siamo troppo stretti. Alle 19 più o meno dobbiamo chiudere per il piano. Alle 19, sì. Questo è il mio paese, questa è una montagna un po' simbolica, cioè la montagna sopra il mio paese, il paese Caverno, la Bergamasca qui, e gli altri paesi, i boschi, eccetera. È un po' simbolica perché, diciamo, la foto sarebbe un po' diversa, però nei miei acquarelli metto anche un po' c'è un po' della creatività, diciamo, di ordine simbolico, cioè, se c'è un elemento che mi piace lo metto dentro. Per esempio, forse non ho più. Vabbè. Le bellezze aspre che i monti mi hanno sempre le bellezze alte dei monti mi hanno sempre affascinato e continuano a farlo. Quando percorro i boschi ricchi di odori, di colori, i prati e i pascoli e i paesaggi verdi che in autunno diventano tavolozze di colori e in inverno sono coperti dal bianco manto nevoso, quando attraverso i valichi vasti, quando scalo le gole strette, le rocce, i canaloni, i nevai e i ghiacciai, dimentico per lo più la monotonia, le noie, le meschinità e le contraddizioni della vita quotidiana per vivere quasi in un altro mondo. L'escursione è quindi per me un'immersione nella varietà, nella vastità, nella solitudine e nel silenzio del creato, i cui scenari invitano alla meraviglia, alla contemplazione e al ringraziamento. E ultimamente ho seguito un po' la polemica tra Messner, Reinhold Messner, con Jovanotti, mi sembra. Io do ragione a Messner, la montagna è meglio lasciarla stare, no? E lui è andato su a cantare, mi sembra, lì a Plan de Corones, poi mi ha detto che il tempo era molto brutto. Però a me non piace molto queste, diciamo, mondanizzazioni, perché la montagna è anche per me un po' sacrale, ecco, un po' religiosa. Ecco il concetto quindi di contemplazione, e l'altro concetto è di lotta, perché andare su in montagna è fatica, c'è poco da fare. E molti fanno meno di andare su perché... E qui tocco un concetto che voi conoscete meglio di me, no? La molla dell'alpinismo, no? Uno va su in montagna proprio per confrontarsi con la natura dura, e gli alpinisti, grandi alpinisti, Walter Bonatti, Reinhold Messner, sempre descrivono questa lotta con la natura. Un po' ce l'ho anch'io, solo che io sono un alpinista di seconda classe, no? Perché non sono andato oltre i 3500 metri, la più grande montagna che ho fatto, che ho scalato, è l'Adamello, no? Una montagna lì sulle Alpi Bresciane, 3500 metri, di più purtroppo no, perché bisogna anche essere attrezzati, eccetera, c'è tutta una storia. Ecco, però questo lottare con la montagna è una cosa che mi affascina, anche nel mio piccolo, perché è chiaro, però anche, specialmente adesso andando su con l'età, faccio più fatica, e quindi magari lascio perdere le vette, adesso mi fermo ai rifugi, e sono contento se arrivo ai rifugi. E, parallelamente alle escursioni fisiche, espongo escursioni esistenziali, spirituali, prendendo spunto dalle mie esperienze di vita, senza però sviluppare sistematicamente nella spiritualità, la storia della spiritualità, perché ci vorrebbe un libro a parte, né una autobiografia, cioè prendo degli avvenimenti della mia vita, ma come esemplificazioni, no? Di più non sto lì a insistere, perché sennò avrei dovuto scrivere una autobiografia, che per me non era interessante. Ecco, questo è, dicevo, la montagna, che è la prima montagna che io ho conosciuto, il Bronzone, noi lo chiamiamo il Borenpu, il bergamasco è un po' una lingua sui generis. E questo è, si vede poco, è Montisola in mezzo al lago, di là c'è il Monte Guglielmo, quasi 2000 metri, montagne che ho scalato varie volte, che sono molto, molto belle, molto interessanti. Ecco, io questo è un acquarello che ho fatto io, ho cercato appunto di dare tutto il paesaggio. Vedete le Alpi bergamasche e bresciane, cioè le Alpi lombarde, che conosco abbastanza bene, perché noi qui dal lago Liseo tante volte andavamo su in Val Seriana verso ovest, oppure in Val Camonica, sulle Alpi bresciane. Ecco, lì ho cercato di di rappresentare l'Aramello, che è la montagna più alta. Qui invece da noi, sulle Alpi Bergamasche, c'è la Presolana, una montagna molto bella, che ha un po' caratteristiche dolomitiche. Ecco, il mio paese è questo qui, e questa è Montisola, con una bella chiesa qui in cima alla montagna, una chiesa della Madonna. Questo è un famoso castello Oldofredi, che ha una storia medievale. Ecco, salire anche su queste montagne mi piace, anche conoscere diciamo le particolarità, l'Andeskunde, cioè conoscere un po' la cultura del posto. Non sto qui adesso. Scusi, quella montagna lì quanto è alta? L'isola? Questa qui è Montisola, sì, noi chiamiamo Montisola, sarebbe Montisola, Berginsel, è alta, non è molto alta, sa, tra i 500 e i 600 metri. È tipo collina, diciamo. Ecco, una collina, sì. Collina, però c'è la caratteristica un po' di... Caratteristica, sì. Questa è l'isoletta di San Paolo. Molto bella, adesso mi sembra che sia proprietà di Berretta, no? Gente molto ricca. E questa invece è l'isola di Loreto. San Paolo, qui c'erano una volta i monaci nel Medioevo, sono stati loro che hanno abitato la chiesa, hanno costruito una bella, cioè hanno abitato l'isoletta, hanno costruito una chiesa, poi è arrivato un ricco italiano dall'America, ha buttato giù a la chiesa nel lago e ha costruito la sua villa, cose che adesso non si possono più fare, ma siamo all'inizio del secolo scorso, allora per lui era progresso. Ecco, questo è ancora il mio paese, e qui ho descritto un po' le mulattiere, e queste pietre rotonde di fiume, e che io amo molto perché partono dal basso e vanno sulle montagne, e quindi faccio una descrizione di questo del Rihul in bergamasco. Rihul vuol dire il riccioluto, cioè il selciato, no? Ecco, entriamo qui questo è un seminario eucaristico di Ponteranica vicino a Bergamo. Vedete qui la ferrovia che andava su in Val Brembana. Purtroppo hanno fatto un errore, no? Hanno tolto sia questa ferrovia della Val Brembana e sia la ferrovia della Val Seriana. E ci sono adesso degli intasamenti che non finiscono più. Però io mi ricordo, era la fine degli anni 50, inizio anni 60, ero adolescente, e dicevano adesso il futuro appartiene alle ruote di gomma, appartiene alla gomma. E invece è stato un peccato, perché i tirolesi hanno rivalutato, no, la ferrovia del Finskau, lì adesso questa bella ferrovia che... questo è il seminario dove io praticamente ho studiato le scuole medie, perché la scuola media allora non c'era nei paesi. Ho studiato in questo seminario, e noi chiamiamo seminario eucaristico, il seminario dei sacramentini, in tedesco Eucharistina. Ho studiato la scuola media, poi ho fatto diciamo il liceo classico e basta. La teologia l'ho studiata a San Benedetto da Tronto. Ma subito dopo il liceo? No, ho fatto ancora due anni di noviziato, di cui... Ecco, questa è una pausa, la città di Bergamo, molto bella, sì. E questo è il Canto Alto, noi questa montagna è 1300 circa, tante volte siamo saliti su questa montagna, era praticamente il Hausberg di Bergamo, no? E qui sono io con la classe dei ragazzi della scuola media, andavamo su accanto a questo. Qui è un paesino chiamato Olera, e mi ricordo che negli anni 50 andavamo noi seminaristi e venivamo invitati da una famiglia a mangiare le castagne. Ci voleva 3 ore, né, dal seminario fino a quel paesino lì Olera. però ho un bel ricordo perché la famiglia era molto generosa, mangiavamo molte castagne e uva. Era un Tögelen, ma un Tögelen molto povero, no? Perché a quei tempi c'era ancora molta povertà, inizio anni 50. E questo paesino, ma dopo un tempo l'ho dimenticato, mi sono ricordato di nuovo perché questo frate qui che vedete è fra Tommaso Daulira, Bruder Thomas von Bergamo, ora von Olera. Sì. Era un papa XXIII? Sì. Era da questo parte, no? Era vicino, era più verso Pontida, verso il Comasco. Questo invece è proprio sotto Canto Alto, cioè vicino a Bergamo. Però quelle parti lì, sì, siamo vicini. Ecco, dicevo di fra questo frate qui, siamo nel 1500, lui era praticamente era analfabeta, no? È tratto dai frati a Verona, è fatto cappuccino, e questo qui è un grande mistico. Ecco, Papa Giovanni conosceva molto bene questo frate. E fra Tommaso da Olera, Tommaso Acerbis, il cognome, ha avuto molto successo, tra virgolette, qui in Tirolo. Perché siccome lui era un mistico, era un profeta, lui prevedeva se, non so se una guerra la vincevi o non la vincevi. In quei tempi c'erano le famose guerre dei 30 anni, no? Tra Heringer. È stato fatto beato. E lui andava lì da Leopoldo V, il granduca di Innsbruck, e gli ha detto: quella guerra lì puoi farla perché la vinci. E lui era conosciuto sia dall'imperatore Ferdinando a Vienna, sia dal granduca di Innsbruck. E pensate che non sapeva neanche l'italiano. L'italiano l'ha imparato un po' dei frati, parlava un po' bergamasco, un po' così, però lui ha avuto successo. Lo chiamavano der Heiliger Bruder von Tirol, fra Tommaso di Bergamo. Ecco, questo è Olera, un paesino. Tutto Tirolo, qui, ecco, adesso descrivo un po' quando ero ancora seminarista i posti dove noi andavamo in montagna, no? I parroci bergamaschi ci ospitavano, per esempio questa era su Apizzino in Valtaleggio, no? Famosa per lo stracchino di Taleggio. Ecco, e mi ricordo, siamo ancora sempre all'inizio negli anni 50, era bellissimo, c'era questa chiesa della Madonna. E poi noi eravamo ospitati in questa casa del pellegrino. Facciamo un po' alla svelta perché sennò qui non... Questa è la montagna, ecco, una delle montagne più alte che ho conosciuto quando facevo il liceo, è il Pizzo dei Tre Signori. Siamo a 2600 circa, no, 2800 di altezza. Questo mi piacevano molto le case su in Valtaleggio, vedete, tutte fatte di pietra, e qui ho preso da un calendario, ho preso queste illustrazioni, vedete, il tetto fatto di pietra, anche i muri tutto di pietra, contrario a qui in Tirolo, qui tutto in legno, e qui il legno è abbondante, invece da noi il legno scarseggia un po'. Quindi per me andare in montagna vuol dire anche conoscere, approfondire anche il modo di costruire le case. Sì. Per tornare all'immagine, sì? Prima, che pietre sono quelle che hanno preso sul tetto? Che pietre sono? Schifer? Schifer, esatto. Sono in bergamasco, diciamo le pieude, in lombardo. Però sarebbero, non so come in italiano, forse, però sono pietre. Sì, quelle che sì. Sono i microcisti, quelli che ci sono, esatto, sopra. Si tagliano così, senza tagliare, sono già. Sono astratte. Le pieude si scrive con l'umlaut, più pieude. No, vuol dire esiste un tipo nero, serviva come lavagna. L'Ardesia, giusto, penso di sì. Comunque allora in montagna c'erano molte ancora, per esempio anche in Ticino le ho viste, Canton Ticino, ci sono anche molte di queste case così, dei contadini. Questo qui è una parentesi, parlo del mio noviziato che ho fatto a Castel Moncalieri di Torino. E qui sarebbe interessante, forse non lo leggo magari dopo, sviluppo un mio, in base a queste mie esperienze, un mio concetto della spiritualità. E la spiritualità, cioè quello che ho vissuto io era la spiritualità, diciamo, del Medioevo, era preghiera, far penitenza, i peccati, eccetera. E poi se magari eri... avevi dei carismi, magari avevi delle visioni oppure facevi miracoli, questo naturalmente gli spiriti più avanzati, no? Non certo i piccoli novizi di seconda classe. Però dopo io ho scoperto che non va più bene questa spiritualità, c'è una spiritualità più alla mano, più terra a terra. E io in questo articolo la descrivo, vi leggo forse solo una parte, no? Terminato la quinta ginnasio a Ponteranica, Bergamo, all'età di 17-19 anni, ho passato 2 anni di noviziato sacramentino in una comunità composta da una 30 di confratelli novizi. I 2 anni di noviziato erano richiesti per entrare a far parte della congregazione dei sacramentini. In quei 2 anni le escursioni fisiche nei dintorni di Moncalieri, cittadina a 9 km a sud di Torino, sono state praticamente irrilevanti. È stato invece importante l'escursus spirituale della mia vita da novizio. Vivevamo in un antico castello, ecco, questo è un mio acquarello, il castello è proprio così, un castello di origine medievale adattato a monastero. In particolare la torre più voluminosa, vedi l'illustrazione, adattata a cappella, questa torre, e all'interno abbiamo fatto una bellissima cappella rotonda con l'esposizione del Santissimo, perché noi avevamo come specialità l'adorazione dell'Eucaristia. E 2 o 3 notti alla settimana dovevamo alzarci di notte a fare questa adorazione. Quanto durava l'adorazione? Com'è? Quanto durava questa adorazione? Un'ora. E quando stava per finire l'ora io mi alzavo, andavo a svegliare l'altro novizio. C'era la lista ed eri solo nella cappella. No? Facevate l'adorazione a turno? A turno, sì, di notte. 4 ore. Il principio era questo, che l'esposizione del Santissimo non doveva essere mai tolta, cioè l'Eucaristia era sempre esposta al sezzo del Sole. Quindi non chiusa in un tabernacolo? No, ma esposta, e quindi doveva sempre esserci un adoratore. Sempre 24 ore? 24 ore. L'adorazione, noi siamo perpetua. E adesso i costumi si sono mitigati, adesso non fanno più adesso la fanno ancora l'orazione, sì, ma non provo di farlo. Com'è? Qualche cristiani a Marano vogliono fare un gruppo laico. Ah, ecco. E quasi sono arrivato a lì. Ah sì, no, bello, a Marano, no? A Marano ci sono gli Eucaristina, sì. E a Bolzano anche. Interessante, ecco. Sì, perché oramai i frati, cioè i membri della congregazione sono pochi, no? C'è crisi dappertutto, no? Lo sapete meglio di me. Ecco, canto ancora qualcosa. Ecco, l'adorazione notturna 2 o 3 volte a settimana, ciascun novizio a turno e a passare un'ora di notte da solo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento, solennemente esposto, da qui il nome sacramentini o eucaristina. Queste ore notturne di adorazione erano un impegno non da poco, avevo 18-19 anni, no? E stare da solo nella cappella semibuia, vincere la sonnolenza, il freddo invernale, perché lì faceva freddo, è il caldo estivo. Ma il lavoro più impegnativo era l'intrattenimento adorante con Gesù e eucaristico, specialmente nelle ore notturne, quando si era alle prese con la sonnolenza e con l'aridità spirituale. Sì, perché non sempre la spiritualità era alimentata da facile entusiasmo giovanile. Eravamo giovani, però. Quello che mi interessa, un'altra, oltre all'adorazione notturna, dovevamo fare ogni giorno un'ora di adorazione diurna, sempre individualmente a turno, senza contare le altre ore di preghiera trascorse nella cappella: messa, rosario, benedizione solenne col Santissimo, recita cantata dell'ufficio divino in latino, molto lungo all'epoca, perché dopo è stato abbreviato dal Concilio Vaticano II, ma allora era lungo. Ah, per quello il nome breviario. Il breviario sì, era sì, perché era il breviario, il nome era quello che recitavano i preti, diciamo. Sì, va bene, ma è per quello che l'hanno chiamato sì, breviario, perché sì. È un accorciamento. Un abbreviamento. Sì. Al di fuori delle ore di preghiera, il tempo rimanente era dedicato ai lavori manuali, eseguiti osservando il silenzio, a curire gli animali, la stalla, il pollaio, vangare l'orto, eccetera, eccetera. Il nostro maniero monastero si trovava in una posizione incantevole. Dalla collina Sperone, su cui era posto, si spaziava con lo sguardo sulla pianura piemontese, che a ovest confinava con la catena delle Alpi occidentali, tra cui spiccava il Mont Viso, era una bellissima. L'inverno in basso c'era tutto nebbia, nubi, e noi eravamo, emergevamo. Sempre sopra la nebbia, voi. Sopra il mare di nebbia, wow. Esatto. Qualche volta la nebbia arrivava anche sopra di noi, però la maggior parte eravamo... A che altezza eravate? A che altezza, che altitudine eravate? Ma adesso a 500-600 metri circa, sì, sì. Però è già... Scusi, invece posso chiedere il nome della località che lei ha citato poco a 2800... Ah, 2000, sì, questo è il Pizzo dei Tre Signori. Scusi. Pizzo dei Tre Signori, con la montagna delle Alpi Bergamasche. Pizzo dei Tre Signori. Prima avevo citato l'Adamello. Forse lei pensa all'Adamello. No, io ho pensato soltanto a questa località perché non mi è sfuggita, però poi lo adesso me la... Ecco, sì, sì, Pizzo dei Tre Signori. Riesco a leggere. Grazie. Concludo. Contatti col mondo esterno, quasi nessuno. Niente televisione, niente radio, niente giornali, niente telefono. Internet e cellulare nemmeno esistevano a quei tempi. L'unico avvenimento un po' mondano durante i miei 2 anni di noviziato fu la visita a Torino della mostra Italia 61, dopo 100 anni del risorgimento italiano. 1861, noi eravamo 1900, siamo andati a Torino tutti con la tonaca, eccetera. Quindi, sì. Pertanto la separazione dal mondo, la fuga mundi degli antichi monaci, fuga mundi cioè lontani dal mondo, fuga dal mondo, specialmente da quello femminile, era pressoché totale. In forza di tale separazione la sessualità rimaneva, per così dire, congelata. Nella mente dei superiori tale clausura, cioè chiusura, doveva preservarsi dalle attrazioni del mondo in vista di una emissione senza intoppi del voto di castità, perché alla fine del noviziato si emettevano i 3 voti: castità, obbedienza e povertà. Ecco, questo mi interessa brevemente, le mie riflessioni attuali sulla spiritualità del noviziato. Perché dopo io come teologo ho cercato di approfondire, e questa spiritualità io la ritengo oramai superata. Diciamo superata non nel senso che la fede non ha più importanza, la carità, no, quelle virtù lì sono importanti, però il modo della, diciamo, il sistema di vita oggi non è più proponibile, è la vita così che facevamo noi. Riguardo a quegli anni di forte ascetismo, oggi a 70 anni sono nati, ho maturato considerazioni in parte diverse da quelle del novizio di allora. Per dirla in breve, ci sono due scuole di spiritualità, dall'alto e dal basso. In quegli anni, prima del Concilio Vaticano II, dominava la spiritualità dall'alto, che puntava molto, troppo, sulle rinunce, sul soprannaturalismo, miracoli, apparizioni, visioni, e sugli sforzi eroici dell'io o piuttosto del superio. Date le esigenze del mondo moderno e la maggiore sensibilità per i diritti umani, grazie inoltre alle innovazioni teologiche portate avanti dal Concilio Vaticano II, oggi prevale la spiritualità dal basso. Nella vecchia spiritualità preconciliare rientrava anche il reclutamento prematuro dei futuri monaci, frati o preti. A 10-12 anni, io a 11 anni sono andato in seminario, troppo sì, presto. Non neanche consapevoli, no? Niente, la rinuncia alla donna a 11 anni. Sì. Non ho ancora un problema. Magari proprio l'anzi della fastidio del femminile. Beh, c'è quell'isola lì in Grecia, dove ci sono solo monaci e le donne non possono andare a visitare. La Monte Athos. Monte Athos. Lì è ancora proibito per le donne. Sì, sì. È il mio pensiero di andare una volta al Monte Athos. Ma non si può ancora. Per travestirsi. Facciamo la scalata su. Volevo andare al Monte Athos. Per travestirsi da maschio. Ci vivono solo quei monaci lì, sì. E ci possono andare a fare una vacanza che è una vacanza anche spirituale, però solo maschi. Sì, solo maschi. Probabilmente evitano le donne, così evitano anche le tentazioni. Anche sotto i Berliner filarmoniche, sì. Sotto Karajan non erano ammesse le donne in nessuna. No, ma lì proprio sono secoli che è così. Non hanno permesso. Ma sa perché? Perché loro sono ortodossi. Non hanno avuto il Concilio Ecumenico Vaticano II, perché il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato un cambiamento di paradigma, sì, no? Molto, sì. Paradigma, cioè cambiamento, una nuova teologia, una nuova spiritualità. Sì. Loro, gli ortodossi, non ce l'hanno avuto, avranno forse altre riforme, ma loro continuano ancora il vecchio ascetismo. Sì. Dalla fuga al mondo. Un cerimoniale molto ridondante, sì, no? Sì, quindi credono la loro liturgia. Hanno tutta una cosa diversa. Abbiamo un'amica che è ortodossa e sono andata al battesimo della bambina e è tutto diverso. Perché lì proprio il battesimo in un pentolone che riscaldano l'acqua infilano proprio i bambini. Ad esempio, c'è il Pope che viene dalla Russia a fare la cerimonia, perché c'è a Merano questo luogo dove fanno. Abbiamo anche qua la chiesa. Adesso viene prestata agli ortodossi. Allora c'era solo a Merano. E so che ad esempio quando è la Settimana Santa e fanno una notte intera che stanno là pregare, tutta la notte, sì. Sono cose diverse. I cattolici sono un po' più. Cattolici hanno moderati, sì. Ma no, esiste anche. C'è anche il gruppo di preghiera nella veglia. Neocatecumenali, ecco sì. Dopo ci sono vari movimenti. E poi. Adesso per esempio il problema di questo Papa è piuttosto moderno, lui insiste molto sui problemi sociali, gli emigranti tutti qui in Italia. Sì, tutti qua. Sì. Però ha grosse resistenze in certi cardinali perché un po' trascura un po' diciamo, l'ortodossia cattolica, ecco, la tradizione cattolica. Bene, io dico, finisco questo perché è interessante anche perché fa vedere la mia evoluzione, che io combino molto con l'andare in montagna, perché andare in montagna per me anche vuol dire molto meditare, anche concetti teologici, no? La spiritualità, perché lì c'è il silenzio, a me piace molto il silenzio in montagna, contrariamente a Giovanotti. Mi sa che la platea qua è abbastanza d'accordo. Io dico, in montagna uno si sente libero, sì. Libero. Sì, libero coi pensieri, sì, libero. Con tutto, sì. Ma anche in comunione, no? Sì. Quando ero giovane però devo dire che mi piaceva magari la competizione, eravamo in 7-8, chi arrivava prima, eccetera, eccetera. Adesso no, se uno vuole scappare avanti lascio perdere, sì, sì. Anzi sono contento così sono da solo. Allora, adesso diciamo, ecco, fatto questa parentesi, ecco, per vedere la parte spirituale, andiamo avanti e arriviamo al capitolo militare. Io, ecco, finito lo studio della teologia a San Benedetto del Tronto, sono uscito, non ho preso messa, no? Ho detto ai superiori, devo un po' riflettere perché c'erano tante cose in cantiere che non mi... Erano anni anche del 68 lì, il 68 mi ha preso in pieno, no? Perché io sono uscito nel 69, avevo 26 anni, il 68 l'ho vissuto, avevo 25 anni. Non sono andato a Milano a fare le dimostrazioni perché ero ancora in convento, però lo spirito lo si viveva. Quindi sono uscito e sono andato in Germania nel 69 e ho cominciato a lavorare con i muratori così, perché non avevo soldi, dovevo guadagnare. In Germania era bellissimo, no? Perché pensate che nel 70, 71, 72 hanno fatto la grande... Olimpiade di Monaco, di Baviera, mi ricordo che hanno fatto anche la grande metropolitana, no? Luba, e lì c'erano lavoro per tutti, era la mecca di tutti i muratori dell'Europa o del mondo, insomma il lavoro si trovava a occhi chiusi, adesso la sonata è cambiata, no? Quindi ho avuto anni anche fortunati, no? Qui in Germania mi sono sempre mantenuto da solo. Facendo il muratore, no? Perché così lavorando in cantiere si prendeva anche bene, no? E dopo facendo l'insegnante di lingua italiana ai tedeschi, lì mi è piaciuto molto, perché avevo fatto la maturità classica e quindi quel titolo lì mi ha dato e quindi per tanti anni ho insegnato lingua italiana nelle Volkshochschulen tedesche, è stato un lavoro ottimo, si prendeva anche bene. Corsi serali, erano sempre corsi serali di 3 ore, e con i soldi delle Volkshochschulen mi sono praticamente mantenuto gli studi, perché poi mi sono iscritto a Tübingen, alla facoltà di teologia, e ho fatto il dottorato di teologia, l'ho terminato nell'86. La più famosa facoltà di teologia. La famosa teologia dove c'era ancora Küng, era il professore Küng, Hans Küng. È ancora lì, sulla Wilhelmstrasse, davanti, sì, alla facoltà di lettere, la biblioteca cinese. Ah sì, lei conosce Tübingen? Sì, molto bene, sì, la più bella città di tutta la Germania. È una, bravo, sì, è molto bella, è una delle più belle, sì. Sì. Heidelberg, Tübingen, sono bellissime, sì, sì, sul fiume Neckar. Io faccio vedere anche un mio disegno di Tübingen, e andiamo subito a vederlo. Di quel disegno, perché io ho fatto un'analisi della città vecchia di Tübingen. Sì, hai fatto uno studio su l'università, no? Da tutti i figli questa serata l'architettura medievale a Tübingen era importante. Ecco, questa è Tübingen. Tübingen qui si vede poco bene, comunque ecco, questo è il fiume Neckar e io ho tantissimi ricordi, sono stato lì 7-8 anni, è bellissima la città, con le case sveve, no? con le travi tipiche. Fachwerkhäuser, molto bello. E Heidelberg anche bella, sul fiume Neckar, Però Heidelberg ha un po' un altro carattere di Tübingen. Tübingen è un gioiello, no? Col castello, eccetera. Molto verde, molto verde. Torno indietro, allora faccio brevemente il bar un po' disordinatamente, comunque. Sì. Comunque voi entrate così anche nello spirito del libro, no? Anche in questo modo. Faccio vedere adesso le mie esperienze da militare. Dunque, io ho fatto il militare, ero già un po' anziano, avevo già 28 anni, e quindi non ho avuto quel grande entusiasmo, però siccome amo molto la montagna, a me quelle marce alpine sui monti, ero stazionato a Vipiteno, a me piacevano molto, ecco, e quindi le descrivo anche con campi invernali, campi estivi. Ecco, questo è Sterzi in Vipiteno. Avevo fatto a Cuneo, avevo fatto il CAR, cosiddetto CAR, cioè l'introduzione alla vita militare. Poi sono venuto nell'anno del Signore 1971, sono venuto alla bella cittadina di Sterzi in Vipiteno. Vedete qui a destra, c'è questo campo estivo, era il campo nostro dell'artiglieria alpina. Io nell'artiglieria alpina, c'erano tre caserme a Vipiteno, c'era la caserma degli artiglieri, Gebirgsjäger, subito dopo c'era la caserma degli alpini semplici, e qui dopo la ferrovia c'era un'altra caserma ancora degli alpini, eravamo tre caserme. E qui il nostro campo sportivo, qui c'era la caserma, questo edificio si vede poco, e qui c'erano tutte le stalle dei muli, avevamo molti muli in artiglieria montagna. Molti muli perché praticamente trasportavamo i cannoni sui muli, cioè i cannoni venivano, diciamo, disgregati e poi montati sul muro. Ecco, qui il sottoscritto, mi trovo qui, eravamo in Val Sarentino, Zantal, e dovevamo preparare le strade perché sarebbero venuti su gli automezzi con i cannoni per le prove che facciamo in giugno, noi la chiamiamo la scuola tir, quindi io con un drappello di questo nostro ufficiale, un drappello di soldati, dovevamo preparare la strada. Pensate che c'era, quell'anno lì c'era tanta di quella neve, che mai eravamo nel 72, adesso vedrete la neve. Ecco, qui l'inizio della scuola, cosiddetta scuola tiri, vedete, caricavamo la canna sul mulo, vedete. E qui, questo è il cosiddetto obice, haubitze, l'obice. E qui c'erano i militari addetti al pezzo, addetti all'obice. Questo è lo scritto, e facciamo durante questa scuola tiri, dove sparavamo in alta montagna, facciamo anche delle gare. Questa è la famosa corsa campestre. Allora ero un po' più agile di adesso. Avevo 28 anni. Ecco, questi i nostri muli, la cosiddetta beverata. Qui siamo ancora a Sterzi, in Vipiteno. C'erano dei vedete, militari, ogni militare era addetto a un mulo. Ma era sempre lo stesso? Veniva affidato un mulo preciso? Sì, c'era il cosiddetto conducente al mulo, cioè aveva il suo mulo per tutta la naia, per tutto l'anno. E poi c'erano gli addetti all'obice, quelli non avevano. Però succedeva che al campo, adesso lo dirò, al campo estivo tutti dovevano portare un mulo. E anche a me hanno dato un mulo, però io non avevo un rapporto. Questo è un mulo che scalcia, devo stare attenti perché il calcio di un mulo ti può mandare a creatura, no? Ma si crea un rapporto col mulo? Sì, diciamo io lo descrivo qui, ho avuto un rapporto poco felice perché avevo un po' paura, no? Ci dicevano a te non andare dietro al muro. E allora, quando dovevo mettere sul carico, no, la sella così, chiamavo un amico valtellinese, quello andava dietro, andava avanti e il mulo gli faceva niente, perché il mulo si accorge se hai paura. Anche in regime di confidenza può avere in qualsiasi momento un attimo di paura. Per i cavalli è esattamente vale, per tutti è un calcio può sfondare completamente un essere umano, comunque anche se è solitamente è il riflesso, cioè non è che misurano l'intenzionalità. Sì. Solitamente è letale, poi se non si salva tanto meno. Comunque c'era questo problema, perché c'erano alcuni alpini che avevano un rapporto ottimo, no? Perché già da piccoli avevano frequentato l'animale. Mentre gente come me, un po' sugli anni, aveva difficoltà, almeno io. Poi io ho conosciuto il mulo solo nel campo estivo, poi basta. Invece quelli che stavano lì tutti i giorni, magari gli hanno qualcosa da mangiare, così potevano avere un rapporto molto migliore di noi. Comunque sono bestie meravigliose, molto, molto brave nella fatica, eccetera, sono ottime per il trasporto in alto mondo, al muro è lì. Ecco, questi qui è il campo estivo, vedete questi nostri obici, qui siamo al maso gelato 2.885 metri, sullo sfondo c'è il monte Altissima, che è 3.800, quasi 4.000 metri, quel monte lì con la neve. Ecco, vedete là, quando ho fatto la naia io, i monti erano pieni di neve, adesso sono tutti così secchi. Ecco, dicevo che mi monte così alto, dove? Vicino a Merano, Valdi Fosse, vero? Dietro Valdi Fosse. Ecco, bravo, sì, siamo arrivati a Merano, come si chiama? Val Senales, siamo fermati lì a Certosa la prima notte, poi da lì abbiamo fatto tutto il confine austriaco fino al Brennero, praticamente, questo campo estivo. No? Ecco, vedete i nostri muli? Piantavamo il filare, poi i muli li mettevamo lì e noi dormivamo in queste tende qui sotto, vedete? Sullo zaino avevamo applicato anche il telo, quindi ogni alpino aveva un telo, mettevamo assieme questi teli e poi c'erano delle canne e dormivamo dentro lì tutta l'estate, cioè tutta l'estate, tutto il periodo del campo estivo. Allora, mentre il campo invernale erano solo dei teli attorno alla stanga. Sì, sì, era brutto se pioveva, no? Lì fortunatamente non ha piovuto. Mentre in inverno eravamo più fortunati, andavamo a dormire nei fienili durante il campo invernale. Ecco, vedete, c'era tanta di quella neve, vedete qui, dovevamo spalare la neve per far passare i muli col carico. E erano 3-4 metri di neve, mai visto tanta neve in estate come quell'anno lì. E lo dicevano i tirolesi contadini, dicevano, mai visto così tanta neve. Noi siamo passati così. Beh, quest'anno all'Orumbo c'erano dei metri di neve. Ecco, vedete qui noi in azione spalare la neve. Mi ricordo che avevo gli scarponi tutti bagnati. Aspetta, ve lo dico qui, descrivo un po'. Sarà il 22 luglio. Potevate fare il ligure. Effetto stereo, anche qualche vantaggio, non fa più si freddo. Martedì, leggo per esempio, martedì 25 luglio, ore 6, sveglia, mattinata di riposo, no? Domenica 23 luglio, oggi dovrebbe essere giornata di riposo, ma la sveglia alle 7, data in forma di allarme, si simula un attacco del nemico o altra emergenza, procura fastidi. procura molti vari fastidi, scattare veloci, correre qui e là, smontare le tende per poi montarle a fine allarme. Alla libera uscita della sera ho la soddisfazione di incontrare ragazzi e ragazze turiste di Lüdenscheid in Renania, Germania, e di intrattenermi in tedesco con una bella ragazza. Era il nostro sogno. Ma come tutto nella vita, anche questa esperienza passa. Non ricordo più neanche le fattezze della ragazza. Svanita anche lei come il nome della rosa. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. La famosa frase di Umberto Eco nel suo romanzo Il nome della rosa. La rosa originaria esiste solo nel nome, possediamo soltanto nudi nomi. Questa frase latina con cui Umberto Eco conclude il suo bel romanzo, Il nome della rosa, accenna alla filosofia medievale secondo cui le cose o persone conosciute svaniscono nel nulla, lasciando nella nostra mente solo la traccia del loro nudo nome. Una parentesi filosofica. E così. Ecco, qui siamo ancora durante le marce, vedete, ecco, guardate i monti come erano pieni di neve, siamo a luglio e i monti erano... Ecco. Qui adesso un altro capitolo, nel mese di settembre siamo andati, una ventina di alpini con i muli, anche sottoscritto, siamo andati in Valle Flores, c'era una caserma, adesso non so se c'è ancora, di finanzieri, no? E eravamo alloggiati lì sulla soffitta, ognuno aveva il suo sacco a pelo, e da lì portavamo su tutti i giorni materiale edile su al rifugio Cremona Magdeburger, che la cosa mi è piaciuta così tanto che l'ho voluta immortalare qui nel libro, ecco. E portavamo su questo materiale che c'era sul rifugista, perché il rifugio doveva essere restaurato. Questa è una delle cose che mi è piaciuto di più, no? Perché non mi sono molto identificato con le armi, con i fucili, con gli obici, ma andare su a aiutare così la gente mi è piaciuto di più. Ecco, davanti a me, durante questa marcia, durava 3 ore perché era lungo il percorso, è caduto improvvisamente un mulo, probabilmente ha avuto un infarto e è morto proprio, non si è più rialzato. Era questo compagno, questo commilitone, era di Varese, mi ricordo, era davanti a me. Usavate dopo una settimana, un paio di settimane di carne ogni giorno? Ah, dopo non so perché, sai, era questo, se non lo trasporti con l'elicottero, eravamo molto alti. Ma non avete più portato giù? Penso che... o l'hanno buttato giù nel burrone o non so, però non dico niente, non ho più saputo niente di quel mondo. Ecco, questo sono sottoscritto, ecco, mi interessa questa foto perché vedete il grande ghiacciaio di Val Freres purtroppo è sparito. Io dopo 40 anni sono andato su a vedere a Val Freres, è bellissima quella valle lì col tribulaone, molto bello, e purtroppo non è sparito perché appunto... Ecco, qui siamo su al rifugio, vedete ancora quanta neve dappertutto. Questo è il rifugista, qui parte a me, e noi scaricavamo i muli, mangiavamo qualcosa, vedete, e poi tornavamo giù. Questo è il rifugio Cremona, Magdeburger. Tutto. Qui era l'altana della Stilves, lì facciamo la guardia alla polveriera, grandissima la polveriera, eravamo una ventina di alpini, facciamo la guardia, ogni 6 ore montavamo, facciamo 2 ore di guardia, vedete il campanile di Stilves. Qui il campo invernale, ecco una foto che ho fatto io, questa, vedete, pieno di neve. Qui ecco, descrivo un po' le trune erano delle costruzioni che facciamo noi con i teli, con la ramaglia, con i rami, li coprivamo di neve e dormivamo la notte, e si dormiva anche abbastanza bene, c'era una candela, e io preferivo però dormire nei, nei pagliai, non ho nei fienili, però molti hanno dormito in queste trune. E in periodo di guerra è molto importante, cioè riuscire a arrangiarsi e con materiale che trovi, sopravvivere. Ecco qui le famose gavette, questi sono due commilitoni, le gavette erano importantissime perché servivano sempre. Ecco, questo è interessante, qui quando facciamo i cosiddetti scavalcamenti col mulo, poi bisognava scendere, e scendere era molto pericoloso perché c'era ghiacciato. E io mi ricordo, vedete questo commilitone, vedete, ecco il telo che c'ha sullo zaino, quello che serve per dormire la notte, e la corda dovevo trattenere il mulo. Pensate, io sono caduto 2 o 3 volte e il mulo non è caduto. C'era davanti, c'era un alpino, dietro un altro. Io ho fatto quell'operazione. Solo 2 persone per trattenere un mulo? No, perché si aveva paura che magari col peso il mulo cadesse giù. E io ho sperimentato che il mulo non cadeva, cadevo io dietro che lo trattenevo. Qui lo descrivo, no? Ma quanto pesa un mulo? Non saprei, sarà più di 120. Forse anche di più, non ho idea. Anche 500 kg. Anche 500? Sì. Cavallo. Quindi è una stazza abbastanza. Ah sì, no? Facciamo, non riesco a immaginare come due alpini riescono a trattenere un mulo. Esatto, sì. È quasi un cavallo pesa 700 kg, 500. Qui descrivo lunedì 12 febbraio, ore 3:30, sveglia. Pensate, tutto il campo invernale è svegliare alle 3, alle 4, alle 3, alle 4. E le prime ore è tutto nel buio, no? 3:30. Dunque, 3:30 sveglia, bel tempo e molto freddo. Da Tils, scendiamo a piedi a Varna, Farn, nelle vicinanze di Bressanone. E subito saliamo la valle Scalere Schalders. Dopo chilometri e chilometri di marcia nella neve ci fermiamo a Steinwend, rancio del mezzogiorno alle 14:30. Siamo tutti molto affamati. Pernottiamo in un antico e caratteristico monastero tutto in legno, il quale probabilmente ai miei più giovani commilitoni non dice molto. Per me, ex monaco, invece, è interessantissimo. Verrò a sapere più tardi che quel piccolo convento, tutto in legno, dipendeva dall'abbazia dei monaci agostiniani di Novacella, Neustift, vicino a Bressanone. Bene, andiamo avanti. Ecco qui, praticamente descrivo, siamo partiti dalla Val Senales, questo è il campo in estivo, in estate, abbiamo fatto praticamente quasi tutto il confine qui austriaco, siamo arrivati al Brennero, poi siamo arrivati in Fitch Val di Vitz. Mentre il campo invernale, abbiamo fatto qui lungo l'Isarco, praticamente da Vipiteno a Bressanone e Veltorno, eccetera. No, ma scusa, quello che fai vedere non è il disagio, quello è la valle. Ah, hai ragione, sì. È qui, mi sembra. Sì. È questa qui. Questo qui è la ragione Bressanone. Esatto. Grazie. Sì. Perché poi si congiungono tutti, no? Questi punti, effettivamente. Sì, si vede. Ecco qui, io faccio una descrizione della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è stata tremenda. Pensate che ho letto che sono morti più alpini attraverso le slavine, le frane, eccetera, il brutto tempo, il freddo, il ghiaccio, più alpini che colpiti dalle armi, capito? Cioè morti per cause naturali. Qui fa vedere la Prima Guerra Mondiale, e io spiego qui nel mio libro che praticamente la Prima Guerra Mondiale era una faccenda molto stupida, diciamo, perché gli austriaci ci davano già, per dire, il Trentino, basta. Invece noi abbiamo voluto fare la guerra, quali sono i punti di vista? contro la guerra, però è successo che i tirolesi hanno occupato subito le cime delle Alpi e i nostri alpini da sotto dovevano arrivare su ed è stata una cosa tremenda. Quindi cosa hanno dovuto? L'artiglieria, vedete, cannoni qui, dovevano portarli su a una certa altezza per sparare ai Landeschützen, oppure come si chiamano, Kaiserjäger, perché sennò non succedeva niente. E quindi è stato un lavoro veramente, dal punto di vista strategico, pazzesco, no? Pazzesco. Qualche postazione l'hanno conquistata, ma poi con la guerra lì non è stata risolta più di più sull'Isonzo, no? Sul fiume Piave, più fiume Isonzo, più che sulle Alpi. Ecco, qui distribuivamo il rancio anche alla gente del posto. Qui le nostre marce da Vipitero, questo è un inverno qui in mezzo alla neve, andavamo coi muli nella Val di Vizze, nella Val Ridana, eccetera, poi ci fermavamo, i cuochi facevano il mangiare, eccetera, poi alla fine vedevo che arrivavano gente dai posti, no? I tirolesi, sì, con i loro pentolini e davamo la pasta asciutta, cioè la pasta asciutta che avanzava, ne facevamo tanta, la distribuivamo. Venivano spontaneamente. Adesso non lo so, lo sapevano perché ogni martedì facevamo queste marce invernali dopo i campi, no? E venivano e mi ricordo, mi è piaciuto questo fatto, no? C'era molta simpatia tra la gente e gli alpini, e c'era ruggine, c'era un po' tensioni invece a livello politico, ma tra la gente, no? Io mi ricordo andavo nei bar, nelle osterie a Vipiteno, ero gentilissimi i tirolesi, non mi ricordo, bevavo un bicchiere di vino 50 lire all'ora, ma erano quei tipici bicchieri. Andiamo avanti, qui è una mia china, un disegno a china dove faccio vedere gli alpini al mio paese che hanno restaurato la chiesa di San Bernardo, vedete ancora Montisola e poi le montagne della sponda bresciana, perché parlo anche della cultura che gli alpini hanno, ecco, al di là della vita militare, eccetera, eccetera. Scene di libera uscita, ecco qui la banda nostra del 5° Reggimento Alpini che intrattiene lì. Qui siamo a Sarntine, Sarentino. Qui è sottoscritto con due belle signore. Le bandiere. Queste qui erano quelle che accompagnano le come si chiama? Le vivandiere, bravo, sì, le vivandiere. E qui a Vipiteno arrivavano molti tirolesi, molti bavaresi con i loro bei costumi. Qui un mio amico gli ha detto: mettiti lì che ti faccio la foto. Una famiglia bavarese. Ecco, finito questo capitolo, praticamente finito Manaia, sono andato in Germania e sono andato al nord della Germania, Schleswig-Holstein. Qui vedete il mio acquarello, c'è il grande famoso canale. Il canale tra il mare del nord e il mare Baltico, Nord-Ostsee-Canal lo chiamano, e lì passavano delle navi grosse, molto grosse, con le Hochbrücke, il ponte delle... Qui poi sono sceso al sud della Germania, sono andato a Tübingen, sono rimasto 7-8 anni e ho fatto il dottorato di teologia. Tübingen ce l'ho nel cuore. E come è arrivato a Bressanone poi? A Bressanone ecco che arrivo, dunque io poi, ecco, questo capitolo sono rientrato dalla Germania col dottorato in tasca, potevo anche non averlo, che non ho fatto molta fortuna col dottorato. Chiesa cattolica è gelosa della teologia, comunque. E sono venuto in Italia e ho insegnato religione a Bergamo. Bergamo città, anche nei paesi, anche al mio paese. No? E qui descrivo un po' le gite che facevamo in quegli anni sulle Alpi bergamasche e bresciane, no? Qui i miei amici, qui siamo sul appuntamento sul rifugio Tagliaferri 2328. Ancora allora c'era ancora molta neve, no? Siamo in giugno. Vedete. Qui siamo saliti su una bellissima montagna, in Val Camonica, con due amici, con gli amici, vedete, una lega. Queste sono le Alpi Bresciane. Ecco, due amici sono morti in quell'inverno lì. Adesso non saprei identificarli, comunque sono morti perché facevano il sci alpinismo, che è molto pericoloso, io ho visto che ogni anno qualcuno ci lascia le penne. Per le slavine pericolosissime, perché loro van su, dopo però se il terreno è inclinato la massa rimane. Io fortunatamente non lo faccio, però vedo che ogni anno qualcuno muore. No, adesso dicono che hanno tutti gli strumenti, che calcolano qui, calcolano là, però lei pratica, fa mica sci alpinismo. Lo faccio io. Ah, tu lo fai il sci alpinismo? Anche lei? Ma da sola? Sono prudente, però. Giustamente. Ho tre figli, per cui c'è così. Ah, appunto. Questa è la famosa ferrata, Steigeisen, come si chiama in tedesco? No. Klettersteig, ecco, ci sono un po' dappertutto anche nelle nostre Alpi lombarde. E questa è la scalata dell'Adamello, questo ci tengo molto, questo acquarello l'ho fatto io, no? Questo è il rifugio Garibaldi, noi siamo saliti sabato e abbiamo pernottato e la domenica mattina siamo alzati, eravamo in 3 o 4, ecco, erano queste persone, erano miei colleghi insegnanti alla scuola di Sarnico sul lago di Iseo, e questi erano due ingegneri che insegnavano elettronica, meccanica, roba del genere, e questo qui in basso era molto in gamba, questo è un alpinista, giusto, lui era professore di ginnastica, di sport. E io qui a sinistra ero insegnante di religione in quella scuola. È stata una bellissima avventura, un tempo mai visto così bello, si vedeva dall'Adamello, vedevamo giù la pianura a Parà, vedevamo il lago di Iseo, il lago di Garda, si vedevano i due. Se volete leggo la descrizione perché è stato... Abbiamo poco tempo. Ecco. Quanti? Abbiamo già chiuso la biblioteca al pubblico perché la chiudiamo alle 19, adesso sono le 19:20, se piano piano ci avviciniamo alla conclusione. Ecco la conclusione, allora brava, ecco, questo qui. Lo legge chi lo prende il libro, vero? Com'è? Dopo chi prende il libro può leggerlo. Ah sì, certo, brava, mica. Vediamo tutto così. Certo. Voglio far vedere, questa qui è una bellissima montagna, la Presolana. Vista dal lago di Iseo, ecco, vedete qui il lago di Iseo, al mattino presto, quindi le prime luci, basta così. Io adesso il capitolo sesto vi descrivo un po' le festicciole che facevo con gli amici in montagna, vi faccio vedere solo le foto così, e ecco, questi amici erano italiani e austriaci, qui ero in baita col mio amico Mario, questo qui, era lui il padrone della baita. Questa erano austriache. E qui, ancora con gli amici austriaci, vedete ancora il lago di Iseo, Montisola in mezzo, poi questa, l'isoletta, anche qui l'isoletta, quindi con gli amici. Allora, andiamo verso la fine. Ecco, quando sono venuto a Bolzano, lei mi ha chiesto, venuto a Bolzano, dunque, diciamo che a Bergamo non ho avuto molta fortuna come in altre regioni, diciamo, a me piaceva la regione, ma interesse da parte degli alunni non era eccessivo, ecco. Bene. Di nuovo su per i monti tirolesi, quindi sono venuto qui anche perché avevo impressione di dimenticare il tedesco, siccome ero stato 15 anni in Germania e il tedesco, le lingue è faticoso imparare e si fa presto anche a disimpararle. Allora sono venuto, ho letto in Tirolo, sul Tirolo, e qui ho insegnato anche qui 3 anni religione a Bolzano. Poi ho smesso nel 2000 e dal 2003 sono andato a Bressanone a fare il traduttore dal tedesco all'italiano, roba di teologia, di filosofia e così. Qui vedete la bella Bolzano con i vigneti, è un mio acquarello e questa è Magdalena, la bellissima, quella chiesetta lì è bella, è molto antica anche. Portato su varie volte, andavo su da Bolzano fino a su ai monti del Sarentino, belli. Poi si vedevano le Dolomiti, le belle montagne. Qui, come insegnante di religione in quel di Bergamo, Bolzano, qui faccio riflessioni di tipo spirituale, credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, cioè la mia teologia è fondata sulla tradizione, perché se togli la tradizione togli l'aria, per noi la tradizione è tutto, però la tradizione la devi immettere nel moderno. Questo è il dramma della religione adesso, della Chiesa cattolica, che non riesce a dialogare bene col mondo che di religione non ne vuol sapere molto. Quindi leggete il mio libro, perché vi infervorerete anche sull'aspetto religioso. Quindi uniamo la montagna, la spiritualità, esatto, con l'aspetto dei dogmi cattolici. Come traduttore è pensionato a Bressanone, questo è l'ultimo capitolo. A Bressanone è in giro sui monti circostanti, io conosco molto delle montagne. Vi faccio vedere solo le foto, poi abbiamo finito. Questa è la Santa Croce di Latfons, bellissima. Questo non è un acquarello, è una foto di un amico tedesco. Questo qui invece è Monteneve, Schneeberg am, e qui ho il mio acquarello a San Martino, ecco, San Martin am Schneeberg, San Martino di Monteneve. Solo gli acquarelli. E questo qui è le tre cime di Lavaredo, famoso Traizin, no? È un acquarello anche questo. Questo qui è il famoso Pissarù. Incuriosito di questo nome insolito, ho voluto esplorarlo da vicino. Sì. Suona lingua. Mia figlia adora il gasoi e il percorso di guerra. Sì. Questo è su. C'è la strada degli Alpini. Ma pazza lei per questo. Questo sì, ho fatto l'acquarello nel percorso. Questo è sulle Dolomiti, adesso lo faccio. Ecco, questo qui, l'acquarello della famosa Via degli Alpini. È molto bello, dico, io non l'ho ancora, l'ho visto un po' da lontano, dal rifugio Comici. Ecco. Questo qui è la Hederauthütte, rifugio in Ponte di Ghiaccio. Bellissimo questa gita da coso, io andavo col bus fino a Rio di Posteria, poi da lì su a Funders e poi a piedi fino a, è lunga, sono andato su 3 o 4 volte, molto bello. Vedete il rifugio vecchio che purtroppo è stato abbattuto, era molto bello, e hanno fatto su rifugio nuovo, sì, è molto molto caldo, molto pratico, diciamo, non è la hütte alpina che abbiamo. Questo qui è l'Ortlers, è un mio acquarello visto dal rifugio Düsseldorfer Hütte. Questo è molto bello, nella Val di Vizze, siamo al confine con l'Austria. Questo è nel Rosengarten, nel rifugio Tirser Alpe Tires. Questo è sul Pordoi, che c'è la, la funivia che sale, Dolomiti quindi, questo è il rifugio Carducci, siamo ancora nelle Dolomiti, e questo è il rifugio Bergamo, il Bergamo è su Rosengarten, ecco, questo è un mio acquarello. Qui siamo al bellissimo Tribulaun, questa è una foto, vedete il rifugio nuovo e il rifugio vecchio. Qui siamo a, sì, siamo in zona, mi sembra, di Trento, no? Sì. Questo è, la, è il lago di Braies, Praxersee, Praxersee è un acquarello mio. Bene, qui l'Alpe, l'Alpe Valtellina, Lombardia, qui invece il paesaggio è qui in, in Tirolo, no? E i massi di me. Io avrei finito, sì, grazie, l'ho tenuta. La prima colonna che ci ha raccontato.